Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi ci rivolgiamo a quelle famiglie che stanno comprando casa e stanno facendo il cosiddetto acquisto sulla carta, cioè stanno comprando una casa da un'impresa o da un costruttore, una casa completamente nuova. Comprare un appartamento ancora in costruzione presenta sicuramente alcuni vantaggi molto rilevanti. Il primo è la possibilità di adattare l'alloggio alle proprie esigenze, decidendo la suddivisione degli spazi interni, materiali utilizzati per le finiture. Il secondo aspetto è che le case nuove sono probabilmente fatte meglio oggi di quelle degli scorsi decenni, sono tagliate senza spreco di spazi, sono predisposte alle nuove tecnologie, costa presumibilmente meno riscaldarle, per anni non avranno bisogno di ristrutturazione. E però vi sono anche delle controindicazioni altrettanto rilevanti. La prima è che, soprattutto se si prenota a cantiere appena aperto, una previsione sui tempi di consegna è sempre aleatoria. La seconda controindicazione è che le somme versate fino al rogito possono essere a rischio, soprattutto se il costruttore fallisce. Allora, queste eventualità dovrebbero essere scongiurate da una rete di tutele messa in piedi da una norma del 2005, però è una norma che non trova ancora piena applicazione. Allora, se volete saperne qualcosa di più, intanto, oltre ad ascoltare Salva Danaio questa mattina, potete collegarvi al sito del Consiglio Nazionale del Notariato e scaricare la nuova guida di Zecca, la guida nuova di Zecca, appunto, acquisto in costruzione, la tutela nella compravendita di un immobile da costruire. Questa guida è l'ennesima di un ciclo, appunto, di guide redatte con la collaborazione di 12 associazioni dei consumatori. Allora, noi stamattina però parleremo esattamente di quest'ultima, che è stata presentata peraltro la scorsa settimana a Roma. Questa mattina con noi Giulia Clarizio, notaio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Notaio Clarizio, buongiorno e bentornata Salva Danaio. Buongiorno a tutti voi, sono molto contenta di essere con voi a parlare di questa guida. Di questa guida, tra l'altro, la sua professionalità è stata messa spesso e volentieri al servizio degli ascoltatori di Salva Danaio e di Radio 24, e questa mattina di nuovo sarà possibile interagire con il notaio Clarizio chiamandoci all'800 24 00 24, o se volete potete scriverci al 349 238 6666. Peraltro, siccome in passato ci sono stati diversi fallimenti immobiliari e ancora diverse vittime di questi fallimenti aspettano anche di essere risarcite dopo queste vicende, allora stamattina, per anche fare un po' il punto su questo aspetto, visto che la norma di cui stavamo parlando, questa del 2005, prevede anche delle precisazioni molto specifiche su questo, sentiremo l'avvocato Franco Casarano, che è presidente del Comitato Nazionale Vittime Fallimenti Immobiliari, con cui ci collegheremo però nella seconda parte della nostra trasmissione. Prima di partire diamo un'occhiata rapidissima alla borsa, che questa mattina ci ha riservato un'altra brutta sorpresa. Era partita molto bene la giornata in Europa, con dei rimbalzi di oltre un punto percentuale dopo le bruttissime giornate di giovedì e venerdì che abbiamo visto, per il timore del rischio sul debito, appunto, di Grecia e Spagna. Adesso invece il quadro sta cambiando, perché la performance positiva di oltre un punto si è nettamente ridimensionata a Parigi e Francoforte, che adesso stanno guadagnando appena lo 0,2-0,3%, Londra perde invece lo 0,02% e scivola invece di mezzo punto percentuale Piazza Affari, che da stamattina è la piazza più debole d'Europa e adesso addirittura, appunto, perde tutto il quadro positivo che aveva. Ad appesantire Milano stamattina abbiamo Pirelli che perde 3,5 punti, Finmeccanica, bocciata da Goldman Sachs, perde 3 punti, A2A meno 3, Impregilo meno 2,89%, abbiamo un calo di 2,5 punti su Saipem, sull'Ottomatica, su Italcementi, Unicredit pure perde 2 punti, rimane il segno più su CIR, più 0,8, su Eni ed Enel, che sono in rialzo di circa mezzo punto percentuale, Terna più 0,44%. Debolezza che investe ancora l'euro sul dollaro, a 1,36,86 è il rapporto di cambio in questo momento. Direi di lasciare la borsa, magari ci aggiorniamo nel corso della nostra trasmissione, però andiamo subito al tema di questa mattina. Oggi parliamo dell'acquisto della casa in costruzione. Comprare casa è un'impresa piuttosto difficile, che comporta sacrifici in termini economici e di tempo. Ma si tratta di un'operazione da fare con grande attenzione per evitare poi spiacevoli sorprese, soprattutto se si decide di acquistarne una in fase di costruzione. In caso di acquisto di un immobile sulla carta, generalmente, se il costruttore dovesse fallire prima del trasferimento della proprietà, solo i creditori con garanzie reali sul fabbricato in costruzione, ad esempio le banche, possono sperare di vedere indietro del denaro attraverso la vendita forzata del fabbricato in costruzione. L'acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra o di acconto di prezzo. Cosa bisogna fare dunque per evitare tutto questo? Se fino a qualche anno fa l'acquisto di una casa in costruzione era ben poco tutelato in Italia, grazie a un decreto legislativo del 2005 sono state introdotte delle protezioni per il consumatore. Prima tra tutti la fideiussione, che garantisce in caso di fallimento dell'impresa edile che i soldi versati vengano risarciti all'acquirente. Ma la fideiussione non è la sola garanzia. Ecco perché prima di firmare e procedere all'acquisto è bene informarsi a dovere. E allora stamattina cercheremo di darvi l'ABC intanto di questa legge e l'ABC anche dei passi che vanno fatti, dai quali non si può assolutamente prescindere se la casa dei nostri sogni è una casa che è in via di costruzione. È una materia peraltro piuttosto complessa, quella che viene disciplinata dal decreto legislativo che abbiamo citato nella nostra scheda, il 122 del 2005. Notaio Clarizio, cominciamo subito, non dico tanto con lo scoraggiare i nostri ascoltatori, perché ognuno ha il diritto di comprare la casa dei sogni che vuole. Però è bene precisare che comprare una casa nuova non è che sia, come dire, un'operazione che presenta rischi inferiori rispetto a una casa che magari ha qualche anno di più sulle spalle. Certo, noi sappiamo che quando acquistiamo da un costruttore, quindi da un imprenditore, il rischio ovviamente di impresa esiste e di questo dobbiamo tenere conto. Sappiamo anche che si tratta di una garanzia, quella del decreto legislativo 122 di cui oggi parliamo, che è molto complessa, quindi la cosa fondamentale che le persone devono tenere in conto è quello che è necessaria una informazione molto particolare e molto approfondita, una informazione che noi abbiamo cercato di dare insieme alle associazioni dei consumatori con questa guida che, come appunto diceva lei Deborah, si può scaricare dal nostro sito www.notariato.it e dal sito di tutte le altre associazioni. Però non è facilissima, nonostante noi ci siamo sforzati di renderla il più accessibile possibile, e quindi è fondamentale veramente in questo caso farsi aiutare, ma prima di firmare qualsiasi cosa, da un professionista e quindi in questo caso dal notaio. Quali sono le cose di cui dobbiamo tenere conto? Dobbiamo tenere conto, come appunto prima dicevi, che la fideiussione, che le somme pagate prima di fare l'atto, se non sono tutelate da una garanzia fideiussoria che appunto è prevista da questa legge speciale, ovviamente potrebbero essere perse. Allora, che cosa è che prevede in particolare questa tutela? Prevede una garanzia fideiussoria da parte del costruttore che garantisca tutte le spese, tutti gli acconti che siano stati fatti prima. Prevede una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a partire dalla fine dei lavori, prevede soprattutto un preliminare che deve essere fatto in base a un contenuto che è stato ben elencato, dove vengono scritte in modo chiaro quale sono la situazione del fabbricato e ad esempio quali sono tutti i vincoli, ad esempio qual è il capitolato, e sono cose tutte molto molto importanti. Però dobbiamo ricordarci che tutto questo è vero se già il costruttore ha chiesto il permesso di costruire, perché se non l'avesse chiesto noi ci troveremmo in una situazione che non è protetta per niente, perché non viene ricompresa in questa normativa. Quindi diamo subito la prima indicazione, notaio: prima di verificare, prima di valutare, come dire, la disponibilità dell'appartamento e di guardare la piantina della casa dei nostri sogni, cerchiamo di informarci sul costruttore intanto se ha il permesso di costruire su quell'area individuata. Prima cosa. La domanda si è fatto la richiesta del permesso di costruire, perché se non l'ha ancora fatta tutto questo non è possibile. Ma addirittura c'è qualche imprenditore che si avventura nella vendita, nella distribuzione di piantine di case da costruire senza avere questo permesso? Ma sì, non è illecito. Io posso benissimo avere fatto gli elaborati, avere fatto un progetto, avere già deciso io costruttore, diciamo, chi sarà chi materialmente costruirà questo fabbricato, e quindi essere proprietario magari del terreno, avere già fatto un mutuo che colpisce il terreno e avere quindi una disponibilità e non avere ancora presentato però la richiesta. Certo, per la perché non è per niente scontato che questo permesso si possa ottenere. Magari questo terreno è situato in un ambito territoriale appunto appunto per il quale il comune di riferimento non ha nessuna intenzione di far costruire, oppure lo vuol fare secondo certi parametri, magari con il costruttore non ci si mette d'accordo. Comunque ecco, chiede anche delle varianti a quel progetto che il costruttore avesse presentato. Comunque sia, qualunque fosse il motivo, questa è proprio una cosa di cui dobbiamo tenere conto. La tutela ce l'abbiamo soltanto se il costruttore ha già presentato la richiesta per il permesso di costruire. Quindi io direi che prima di firmare qualunque cosa, una promessa di acquisto, un preliminare, è quello il momento in cui la persona che vuole acquistare casa deve andare dal notaio. Cioè andarci quando ha già firmato qualcosa veramente è troppo tardi. L'abbiamo benissimo detto quando abbiamo commentato l'altra guida, se non sbaglio. Esatto. Ma in questo caso, se posso dirlo, è ancora più importante, perché delle garanzie ce le abbiamo. Come acquirenti abbiamo alcune tutele, ma se non riusciamo a farle esercitare, poi dopo non ci possiamo lamentare. Allora, notaio Clarizio, ci dobbiamo già fermare perché abbiamo già la prima pausa, però sul tema della garanzia fideiussoria sulle somme via via anticipate da chi acquista, garanzia fideiussoria che deve essere rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazione, poi materialmente ci dirà anche chi deve darcela, se è il costruttore o se invece è l'intermediario finanziario. Le faccio sentire subito la domanda di Marco da Como, perché credo che abbia già effettuato dei pagamenti, quindi forse non abbiamo capito se questa fideiussione gli è stata consegnata, Marco, o meno. Buongiorno, benvenuto da noi. Sì, buongiorno a voi, grazie per la possibilità di intervenire. Volevo chiedere al notaio, per quanto riguarda il costruttore che è già arrivato al tetto delle case e la casa è quasi finita, manca soltanto i pavimenti e poca altra roba, se anche in quel caso lì la polizza fideiussoria deve essere consegnata. Quanti pagamenti anticipati ha già effettuato, Marco? Nulla. Ancora nulla, neanche ancora un anticipo, una caparra, niente. No, è proprio esatto. D'accordo, allora Marco, ci lasciamo riflettere il notaio Clarizio per qualche istante, per cui poi ci dirà anche effettivamente in quali termini questo rilascio della garanzia fideiussoria deve essere fatta, perché mediamente mi risulta che comunque per l'acquisto di una casa in costruzione ci sono sempre degli anticipi da versare, anche proprio per fermare l'appartamento. Io la dico in maniera così molto semplicistica, ma credo che funzioni in questa maniera. Allora ci fermiamo per un attimo, c'è anche Gabriele da Bologna con un'altra domanda, lo sentiremo tra pochissimo. Salva Danaio. Allora, volevo salutare intanto l'ascoltatore che mi dice che la trasmissione sembra la terra dei cachi di Elio e le storie tese. Io conosco un po' la discografia di questo cantante, abbastanza piuttosto simpatico, ma non mi ricordo bene il testo di questa canzone, per cui magari se mi volesse motivare questo giudizio, saluto comunque il simpatico ascoltatore, la prendo come una provocazione divertente, non come dire un insulto, piuttosto che una critica alla trasmissione. Allora, notaio Clarizio, Marco da Como, da quello che capisco praticamente questa casa in costruzione che lui avrebbe prenotato, adesso da Marco ci facciamo raccontare anche in che termini, quindi si ha anche stipulato un contratto preliminare con l'impresa, non ha versato al momento niente, per cui si chiede quale deve essere, come dire, anche l'obbligo, quali sono gli impegni, gli obblighi del costruttore in termini appunto del rilascio della garanzia fideiussoria. Notaio Clarizio. Io penso che Marco non abbia ancora fatto nulla, perché da quello che ci dice. E noi abbiamo detto che ci deve essere la richiesta da parte del costruttore del permesso di costruire, allo stesso tempo dobbiamo essere in quel periodo che precede la possibilità di chiedere l'agibilità, perché si tratti di immobile da costruire. Quindi, siccome Marco prima ci diceva che il fabbricato è arrivato sì al tetto, ma manca ancora di tutte le finiture, io penso che siamo ancora nel periodo in cui l'immobile, la casa, il fabbricato la possiamo chiamare da costruire. Se è questa la situazione, come credo, nel momento in cui lui firma un preliminare, e quindi sicuramente nel momento in cui firma preliminare il costruttore gli chiederà una caparra, un inizio di pagamento, in quel momento il costruttore gli dovrà dare la fideiussione e quel preliminare dovrà essere scritto secondo quel modello che c'è già dentro la legge, quindi dovrà contenere un insieme di informazioni. Sentiamo Marco, allora notaio Clarizio, visto che lo abbiamo ancora in linea, per capire quando andrà la stipula del preliminare. Marco? Ma la stipula del preliminare dovrebbe essere fatta a giorni ed è proprio per quello che mi stavo, come ha detto il notaio giustamente, non ho ancora firmato nulla, devo fare il preliminare e versare dei soldi, e volevo appunto sapere appunto come mi ha risposto, se deve essere contestuale praticamente il rilascio della garanzia fideiussoria, notaio Clarizio, non è che il costruttore ci deve dire no guarda ripassa fra due giorni. No, perché in quel momento gli deve dare tutte le garanzie, ma non c'è appunto, come ripeto, soltanto la fideiussione, certo. C'è anche tutto un elenco di cose che devono risultare dal preliminare, ci deve essere un capitolato allegato, ci deve essere la planimetria, ci devono essere le indicazioni delle modalità di costruzione, ormai delle forniture, insomma diciamo il preliminare deve seguire il modello previsto proprio dalla legge. Dalla legge. Notaio, c'è una considerazione di un ascoltatore di Bergamo, Roberto, che dice al 349-238-6666, morire se ho mai incontrato un costruttore che ha sottoscritto una fideiussione, se lo fa pretende di scaricare i costi sull'acquirente. Effettivamente può capitare anche questo, noi speriamo di no, speriamo di avere a che fare sempre con imprenditori assolutamente seri ed integerrimi. Può anche capitare che ci dica: guarda, non farmi fare la fideiussione per questi versamenti di anticipi che mi stai facendo, perché magari ti faccio uno sconto anche sul prezzo complessivo dell'abitazione. È vero che può capitare anche questo? Ma sì, allora noi dobbiamo anche guardare le cose come sono e come sono nella realtà. Infatti questa legge esiste, ma è stata molto molto poco applicata, un poco perché non è conosciuta e un poco anche perché è abbastanza complessa. Diciamo che poi le sanzioni quali sono? Soltanto la nullità del contratto, di questo contratto preliminare, ma una nullità che tecnicamente si chiama relativa. Che cosa significa? Che è una nullità che né io né nessun altro può far valere, ma la può far valere soltanto l'acquirente. Quindi l'acquirente, soltanto se ha interesse a far valere questa nullità, la potrà eccepire e nessun altro. Non è che ci sono delle sanzioni penali o un qualche cosa a carico del costruttore. Quindi se l'acquirente decide di non voler usufruire di questa garanzia, di fatto nessun altro poi dopo potrà costringere lo stesso acquirente a pretenderla. Ecco dove diciamo c'è un punto debole di questa norma, che molto probabilmente avrà bisogno di essere rivisitata e di trovare una soluzione diversa. Quindi è vero che il costruttore ha l'obbligo di dare la fideiussione, ma se l'acquirente non la vuole, a questo punto nessun altro può costringere il costruttore a rilasciarlo. No, tra l'altro non stiamo neanche dicendo, e questo me lo stanno già evidenziando alcuni ascoltatori a ragione, non stiamo dicendo chi la deve pagare, notaio Clarizio. A carico di chi, di chi va questa garanzia fideiussoria, soprattutto in termini, come dire, proprio anche di valore in rapporto al valore dell'immobile, quanto no, ammonta? Allora, la fideiussione non copre il valore dell'immobile, questa è un'altra diciamo debolezza di questa norma, perché la fideiussione copre solamente l'esborso effettuato delle somme versate dall'acquirente, per cui nel momento in cui ci fosse un momento di crisi del costruttore, parliamo di fallimento, l'acquirente ha il diritto di scutere, si dice, cioè di pretendere che la banca paghi per intero questa fideiussione, e cioè di fatto gli vengano restituite le somme che lui ha anticipato. Il costo di questa fideiussione non è soltanto un costo monetario che il costruttore deve pagare alla banca o all'assicurazione per avere la fideiussione, che al limite, siccome esiste un'autonomia tra le parti, si potrebbe pure decidere di metterlo a carico dell'acquirente. È un discorso di costo globale, perché molto probabilmente il costruttore, oltre ad avere il costo della fideiussione, che è chiaro che in prima battuta sarebbe a carico suo, però un acquirente potrebbe anche decidere, cioè io ti pago la fideiussione, mi fai pagare meno l'immobile, insomma, nell'ambito dell'autonomia privata alcune cose possono esistere, diciamo che a carico del costruttore, ma a carico del costruttore ci potrebbe essere, che poi è quello che i costruttori ci continuano a dire, una difficoltà ad avere poi altri crediti da parte dell'istituto bancario, perché avendo alcune fideiussioni potrebbero poi non ricevere ad esempio altri finanziamenti. Diciamo che quindi non c'è una normativa così diretta che effettivamente che attribuisce all'una o all'altra parte in sostanza l'obbligo forte, di un diritto forte, e tant'è vero che si vede che non è stata molto applicata. Infatti, la constatazione che non funziona, perché se una cosa non viene applicata, di fatto vuol dire che non si riesce a farla funzionare. Sì. L'importanza quindi direi anche di un preliminare chiaro è chiaro che si va a fare poi il preliminare dal notaio. Il notaio non accetterà mai, non potrà mai sottoscrivere un preliminare che sia in contrasto con la legge. Con la legge. Si va dal notaio per fare un preliminare per un immobile in corso di costruzione, si avrà la sicurezza matematica, perché il notaio non può fare una cosa che sia contraria alla legge. Allora speriamo magari proprio con quest'ultima precisazione di aver accontentato anche quegli ascoltatori, mi riferisco in particolar modo a Gabriele e Marco da Genova, che chiedono di che cosa è responsabile un notaio durante un acquisto fatto secondo appunto il criterio, secondo appunto la norma che disciplina l'acquisto della casa in via di costruzione. Volevo fare un'altra precisazione di servizio e ricordare che da mercoledì scorso ha preso il via a Milano un ciclo di appuntamenti Comprar casa senza rischi. Questa è un'iniziativa promossa dal Consiglio Notarile di Milano e dall'Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano. Praticamente tra febbraio e aprile si svolgeranno questa serie di incontri su tutto ciò che attiene all'acquisto della casa, quindi ovviamente si parlerà della proposta, del compromesso, della scelta del mutuo, la tutela nella compravendita di un immobile da costruire, quindi la presentazione della nuova guida per il cittadino di cui stiamo parlando questa mattina. Verrà effettuata appunto la presentazione di questa guida, verrà effettuata mercoledì 17 febbraio, però se volete insomma abbiamo tutte le informazioni anche su questa iniziativa. Andiamo ad un altro ascoltatore e chiedo ancora un minutino di pazienza a Gabriele da Bologna, perché lui vorrebbe farci parlare di una cosa di cui vorrei parlare fra qualche minuto. Vorrei rimanere ancora alla stipula del preliminare con Luigi da Milano, se possibile. Gabriele, ancora un minutino di pazienza. Luigi. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Mi sta, se posso dire, sì, mi sta succedendo una cosa stranissima. Io ho acquistato una casa per mia figlia, preliminari, tutto a posto. Adesso tra un mesetto e mezzo ci sarà il rogito, ho già saldato tutto quello che è la questione dei pagamenti. Mm-hmm. Improvvisamente il costruttore sta fabbricando lo spazio riservato a quello che era giardino condominiale di posti auto. Questo quando mi vendete la cosa, lì c'era un bel giardino nel disegno, nel mm-hmm. progetto. Questo è un terzo piano e siamo tutti, perché non sono solo io ovviamente, ma tutti i condomini arrabbiati neri, perché poiché questi posti auto vengono fatti proprio davanti solo una delle tre scale di cui è composto il condominio, proprio la scala dove ho acquistato questa parte. E quindi in sostanza vi mette di fronte ad un dato di fatto, bisognerebbe capire se avete l'opportunità di fare questo, di bloccare o meno questo cambio di destinazione d'uso, immagino. Luigi, vi siete già informati insomma che tipo di suggerimenti vi hanno dato? Io mi sono ho l'appuntamento, perché è una cosa freschissima, un appuntamento col comune giovedì, mentre invece il costruttore, che tra l'altro è gente serissima a quanto pare, scappano tra virgolette, cioè non riusciamo ad avere tutti insieme un appuntamento con questa gente. Allora Luigi, attendali un attimo, notaio Clarizio, sicuramente un bel parcheggio è molto più remunerativo di un gran bel giardino pieno di rose e di tanti fiori, e però diciamo che il costruttore non ha rispettato gli impegni presi con questi nuovi proprietari. Che cosa si fa? Qui bisogna vedere nel preliminare che cosa c'era scritto, perché se nel preliminare c'era scritto che la promessa di vendere una determinata abitazione con una quota condominiale su un giardino, ovviamente ci può essere un inadempimento rispetto a quello che è stato scritto nel preliminare. Bisogna vedere se invece il preliminare era un po' evasivo o addirittura se non c'era addirittura scritto che il costruttore si riservava di utilizzare le aree comuni fino a che non c'era la vendita dell'abitazione, come meglio credevo, secondo dei progetti, anche andare a vedere i progetti. Quindi qui siamo nell'ambito di un contenzioso a fronte di un preliminare, e forse non siamo neanche nell'ambito, non lo so quando è stato sottoscritto questo preliminare, non so se è stato sottoscritto nel rispetto della norma che stiamo commentando in questo momento. Magari possiamo chiederlo. Quindi, Luigi è ancora in linea con noi? Sì, preliminare quando aveva fatto? È tutto in piena norma, ha un annetto questo preliminare. Ah, quindi in sostanza siamo anche dopo l'approvazione del decreto legislativo che è del 2005, il 122 di cui stiamo parlando questa mattina. Notaio, questo cambia qualcosa? Tutto, se c'era rispetto di tutto, ci sono le fideiussioni versate, mi sembra insomma versare tutto fino alla fine senza aver fatto il definitivo non è diciamo prudentissimo, e comunque qui bisogna veramente avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione, così faccio molta fatica. No, infatti è probabile che ci sia la possibilità sicuramente di un'azione per inadempimento, avendo già versato tutto si fa anche fatica, cioè forse non è vantaggioso per l'acquirente chiedere la risoluzione per inadempimento. No, infatti, però effettivamente insomma qua il costruttore si trova anche di fronte ad aver preso ovviamente tutto quanto il denaro già dei nuovi proprietari e poi cambia le carte in tavola. Ricordiamoci che la garanzia di questa norma finisce nel momento stesso in cui si fa l'atto di trasferimento, quindi se ci sono però la norma che stiamo commentando ha una garanzia che vale solo per i casi di crisi, vale soltanto soltanto per il caso di fallimento, certo. Quindi questo non è il caso di un fallimento, no. Quindi noi siamo completamente al di fuori di quello che stavamo commentando questa mattina, riguarda, diciamo, gli adempimenti in generale dei vizi, del vizio sulla cosa, e che quindi rientra nella disciplina generale. Esatto, e tra l'altro, una volta che si entra in casa, qualora si dovesse scoprire appunto che questa casa ha qualche difetto, che per esempio sul muro compaiono, dopo 2 mesi che ci abitiamo, delle strane macchie di muffa, piuttosto che, non lo so, un pezzo di muro comincia a cadere perché non è stato costruito secondo i criteri, sappiate che abbiamo anche un altro tipo di garanzia, che è la cosiddetta polizza postuma decennale. Adesso ve ne spieghiamo i termini, peraltro prendendo a spunto anche il caso di Gabriele da Bologna, subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. C'è peraltro un ascoltatore che voleva segnalarci della situazione in cui stanno trovandosi centinaia di famiglie in provincia di Roma, che stanno perdendo la casa acquistata e rogitata correttamente. Dice, ne hanno parlato anche a Striscia la Notizia. Guardi, ne abbiamo parlato anche noi del Sole 24 Ore. C'è anche un riferimento esplicito sul numero di Casa e Case di sabato scorso. È la questione di questo piccolo paese di Riano Flaminio. Noi proprio in virtù anche di questo non possiamo tornare su questo argomento, perché Salvadanaio ha un altro tipo di obiettivo, cioè darvi tutte le indicazioni che vi servono per evitare di trovarvi in questa situazione. E comunque, ripeto, per chi volesse saperne qualcosa di più, oltre a Striscia la Notizia e i telegiornali, c'è anche sul Sole 24 Ore un pezzo che della nostra Chiara Di Michele, peraltro, che racconta proprio che cosa è successo, e in questa pagina poi c'è anche tutto il riferimento alla normativa di tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione. Allora, Gabriele da Bologna, buongiorno, mi scusi se l'ho fatta aspettare un pochino, ma volevo lasciare per ultimo il suo argomento. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E il mio problema qual è? Ho rogitato tutto, già saldato tutto da un anno. Mm-hmm. È andato tutto bene fino a novembre 2009, quando su tutti i muri, sì, nella base è saldata fuori una riga alta circa 20 centimetri di muffa. Sì. Il cantiere è ancora aperto, in quanto sono 6 palastine in costruzione, le prime 2 le hanno già consegnate, le altre le stanno finendo. Il problema è che la prima società costruttrice, quella che ha consegnato a me, è fallita. Mm-hmm. Ne è subentrata un'altra che a questo punto non ne vuole sapere niente, certo. Sta rimbalzando la cosa, mi dice, non l'ho costruito io, che colpa ne ho io? Mm. Solo che io appunto mi rifacevo anche del fatto dell'assicurazione decennale postuma, mm-hmm, ma sembra che... Se, non ci sia, diciamo, una soluzione. Allora, Gabriele, facciamo un po' di ordine fra le sue carte, le faccio fare qualche domanda dal notaio in modo tale da poter verificare se lei può avvalersi anche di questa facoltà, di questa tutela prevista teoricamente dalla polizza decennale, se naturalmente l'avesse sottoscritta. Quando va sottoscritta, notaio Clarizio, la polizza indennitaria, in sostanza, che dovrebbe mettere al riparo da tutti i difetti della casa dai 10 anni successivi al rogito? Allora, ricordiamoci che quella della garanzia decennale del costruttore è una norma generale che è nel codice civile. Questa della consegna della polizza assicurativa indennitaria di durata decennale è una, diciamo, un vantaggio in più, perché una cosa, come ci dimostra proprio il nostro ascoltatore Gabriele, è avere un diritto da poter poi esercitare, diventa difficile perché magari appunto una persona è fallita oppure non la troviamo più, è una cosa avere in mano una polizza per cui io vado direttamente dall'assicuratore e quindi a questo punto mi viene pagato l'indennizzo. Avrebbe dovuto averla ricevuta nel momento in cui ha fatto l'atto dal costruttore, e quindi... Quindi in fase preliminare momento, addirittura? Addirittura nel momento in cui avrebbe dovuto fare l'atto, avrebbe dovuto ricevere la polizza assicurativa. L'atto che cosa intende, notaio? Il rogito, il trasferimento? Rogito. Quindi. Io credo che lui abbia fatto già l'atto definitivo, da quello che diceva, sì, in quel momento avrebbe dovuto ricevere la polizza assicurativa, e nell'atto preliminare invece l'obbligo di rilasciare di ricevere poi dopo l'assicurazione. Ecco, quindi se non fosse successo tutto questo, notaio Clarizio, abbiamo un'impresa che è stata inadempiente perché non ha operato secondo i dettami della nuova legge. Adesso questa è fallita, come spesso capita, quindi Gabriele non ha più nessuno nei confronti del quale appunto rivalersi. L'impresa che è subentrata, secondo lei, potrebbe in qualche maniera dargli... Sì, bisogna vedere se se in realtà è subentrata veramente, se è subentrata per modo di dire, cioè che c'è stata una cessione del contratto, si è acquistato con tutti gli obblighi. È probabile sicuramente che sia possibile, insomma, chiedere un adempimento a qualcuno che ha finito i lavori, però chiaramente è tutto molto più difficile. No, tra l'altro io adesso a questo punto avrei voluto fargli anche parlare Gabriele con l'avvocato Casarano. Lui per la verità mi aveva già avvisato che aveva un impegno questa mattina a Bologna, e siccome lo avevamo già fermato per la puntata di venerdì che poi abbiamo annullato per far spazio alla borsa, con l'avvocato Casarano abbiamo qualche problema di collegamento, ma in ogni caso lui è il presidente di questo comitato delle vittime di fallimenti immobiliari. Adesso Gabriele chiaramente non è una vittima completamente, perché lui nella sua casa ci abita, e non è invece nella situazione di tante altre famiglie che, dopo aver versato quasi interamente l'importo della casa che volevano comprare, si trovano ad abitare da tutt'altra parte perché queste case non sono mai state consegnate, e insomma tanti problemi del passato. C'è adesso un fondo anche di solidarietà che è stato istituito proprio con questo decreto legislativo 122 del 2005 per tutelare gli acquirenti coinvolti nei crack avvenuti fra il 93 e il 2005. Siamo riusciti ad avere l'avvocato Casarano, lo abbiamo pescato. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto le volevo chiedere come sta andando questo fondo, il fondo di solidarietà. So che lei non ha sentito tutta la prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato dell'ABC della legge. L'ultima parte la segno a lei perché lei è il presidente del comitato, appunto, del CONAFI. Sì, guardi, il fondo sta andando a rilento, nel senso che l'applicazione della legge sta andando a rilento e di conseguenza anche il fondo sta andando a rilento. L'applicazione della legge è, diciamo, abbastanza differenziata a livello geografico, nel senso che vi sono alcune regioni dove si applica un po' di più e alcune regioni dove non si applica per nulla. Comunque la media nazionale grosso modo è intorno al 25% delle transazioni per le quali la legge viene applicata, quindi vengono rilasciate regolarmente le fideiussioni, quindi non più come media nazionale del 25%. Poi ci sono alcune regioni che arrivano al 40% e altre che ovviamente sono molto molto inferiori. Il fondo è alimentato con, ovviamente, siccome dipende, l'alimentazione dipende dall'applicazione della legge, quindi di conseguenza il fondo ha messo a punto, grosso modo, credo, in questo momento ci sono versamenti che si aggirano sui 33-34 milioni di euro, ma teniamo presente che le richieste ammontano a quanto? Di indennizzo che ancora debbono essere, la cui verifica deve essere completata, però le richieste ammontano a circa 1 miliardo di euro. Quindi siamo veramente una goccia nel mare. Avvocato Casarano, io purtroppo ho 30 secondi di tempo prima di chiudere la trasmissione, per cui mi spiace, ma tornerò a disturbarla magari un'altra volta, dedicherò tutta l'ora a lei. Gabriele da Bologna ci ha raccontato che ha acquistato una casa nuova un anno fa, ha rogitato, adesso lui ci abita, sono uscite problemi di muffa, l'impresa costruttrice presso la quale ha acquistato è fallita, ne è subentrata un'altra, non ha la postuma decennale. Che cosa fa Gabriele? Si rivolge a voi? Si rivolge a noi per fare una valutazione più precisa di quello che se ha effettive possibilità, per verificare se ci sono delle possibilità. Se non ha la postuma decennale è un bel problema, se è fallita anche l'impresa, nel infatti senso che, non ci sono molte strade in realtà. Esatto, come si dice, un po' grattare i muri e sistemare da solo, purtroppo, tutti i problemi, appunto, che la muffa ha provocato. Io purtroppo ho terminato il tempo a mia disposizione. Notaio Clarizio, grazie per essere stata con noi. So che avremmo avuto tante altre cose da dire, non ce la facciamo, ci ritorneremo su questo argomento, va bene? Ci torniamo, grazie. Buon lavoro. Grazie a tutti, buona grazie giornata. A lei, e io ringrazio Gaia Romani e Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione. Fabio Cantadori stamattina in assistenza tecnica. Noi torniamo domani mattina. Da Deborah Rosciani, buona giornata.